antenna interna non prende una mazza. A Giomai non prende manco radioamatori di Sassari, ne arrivano solo 2 o 3 di Sassari qua. Il resto con l'antenino telescopico dentro casa dove fai? Però per parlare mi sono buburiato. Però mai dire mai. Cioè, me lo metto il 27, non hai capito? Il 27 canale 27200, come dove c'è il ponte ucraino, così andiamo tutti con l'Ucraina. Ogni volta c'è preparazione, tac, in FM andiamo con loro. Sicuro che ucraino, perché 27200 mi pare che sia il canale 20 polacco, però non ucraino, polacco. I polacchi hanno lo zero finale. Per esempio, per loro il 10 risulta 27070 e sono in FM. Cioè di norma legge è così, loro modulo in FM e hanno lo zero finale anziché il 5. Io mi ricordo che di ponte, di questi parrot in AM, ne arrivava uno, ogni tanto compariva qua, ogni tanto compariva sul 12. E tu mi avevi detto che era forse dalla Spagna, può essere? No, non dalla Spagna. Comunque c'è 27200 il parrot, in pratica. C'è un parrot, la verità. Il parrot era un'altra frequenza, in pratica. Tu entravi, io parlavo, ho fatto la registrazione, io parlavo, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vendesi, carciofi, patate, eccetera, eccetera, e poi dopo 2 secondi io ricevevo, quindi figurati tu, quindi, però quando, scusa, non è vietato a un certo punto, siamo la comunità europea, no? Sì o no, o mi sbaglio, a un certo punto. Non so, Antonio, alla fine questa Europa è tutta una barzelletta, cioè ci abbiamo perso un bel di soldi, l'Inghilterra se n'è uscita, non ti dico un parente il casino che ha dovuto fare, gli mancava un visto, un documento, non è potuto partire per l'Irlanda perché lui abita nella parte dell'Irlanda che fa parte dell'Inghilterra, che se n'è uscita dall'Europa, capito? Quindi doppio casino. Più alla fine io credevo che si uniformassero più anche certe cose, che potevi usare anche cose di altri stati, altre bande di altri stati. Per esempio, tu sai che in Germania hanno i 149 MHz, la chiamano free band, non so se sia legale, ma credo che sia una cosa ufficiale, con canali, una cosa canalizzata, nota, conosciuta, insomma, invece alla fine ogni stato ha ottenuto le proprie bande. Agli inglesi è andata bene, perché loro avevano quella banda FM sui canali alti, erano quelli tutti spostati dei canali, poi gli hanno concesso i canali normali anche, per loro è stata una grande conquista. Perché qua possono parlare, mi pare, in AM, in FM, in SCB, invece là potevano parlare solo in FM, i canali erano, partivano da 27601.2 in FM, capite? Erano, non potevano parlare con nessun altro. Poi vabbè, molti parlavano abusivamente, ma... Eccomi qua, sono rientrato. Ehi, Antonello mi sta ubriacando con i suoi progetti, vuole il parrot, vuole questo, vuole quello. Ah, Antonè, però ci vorrebbe una stazione, non conosci nessuno a Usero in alto, dove c'è la piazzetta che c'abbia un monolocale da adibire a sala ripetitori, no? Penso di no, non lo so la verità. Speriamo bene. A un certo punto magari tanto due di questi, siccome c'è adesso, beh non lo già lo sai anche tu, per il Bob Frank, c'è un ripetitore che in pratica metti due di questi qua e lui farà solo, capito? Quindi a un certo punto ma sono spento, ma comunque sia sa che faremo così. Ehi, ehi, Antonio è rientrato. Anto, magari sta, dai, sa, deve controllare anche il pupo e quindi magari si assente ogni tanto. Oh, Antonio, ma noi non dovevamo partire in guerra contro Putin, che tu portavi pane e formaggio, io portavo vino e salsiccia. Ah, non so, stamattina c'era un giro, cazzo, di pane e formaggio, cazzo, io cosa ho quadrato? Formaggio, pane, salsiccia, ma buonami, porca miseria, non l'ho preso, cazzo, insomma, me la sarei comprata, cazzo, almeno 5 sicchi di quella, cazzo, se ero andato lì in Ucraina, avrei detto, ascolta, al posto di usare, cazzo, le cose, te mangia una fetta di salsiccia, tu, per prendi e spara, al posto mio. Ma piace le scene, stai dicendo le bancarelle, Ia? Le bancarelle, sì, bravo, stamattina. Sono passato lì, sono passato. Anzi, c'è un passaggio di formaggio, salsiccia, ma bella. Mancava, mi sono fatto un giro, mancava solo mettere le scarpe. Mi interessavo le scarpe, vabbè, cazzo, non c'era alcuna, cazzo, di scarpe. Solo salsiccia, formaggio, ma buono, lì. La trova di nuovo, roba del genere, roba buona, verità. Ce lo credo. Certo, magari se la fanno pagare il giusto, però comunque costicchia la roba originale del pastore. Insomma. Sì, vabbè, sai che ma tu si fanno il giro dei circoli anche la sera, non è che è solo la mattina, no? Che se ne vanno in giro tanto per dire. A vedo. Vado con furgone, non è che ti interessa un coso di salsiccia, quanti posso di me, faccio assaggiare il coso di formaggio. Interessa, eccetera, eccetera, hai capito? No, solo pesano e tutto un po' più via. C'è volte anche, sì, con questi furgoni un po', però certe volte mi chiedo, questi che li vogliono così sfuso, magari dal cofano della macchina, no? Magari ti muori di botulino poi, i parenti non possono fare a causa, a chi la fanno a causa? No, mi chiedo se certe volte abbiano anche controllo sanitario o certi articoli miei. Questo non lo so lamentare. Ma te ne volevo dire una sul formaggio, ma no, è troppo schifosa, non te la faccio la battuta. E piena di pene, già ho capito. Ecco, attimo, sto facendo una cosa. Ci sentiamo dopo, ok? Via. Sì, Antonio, ottavo, adesso va bene. No, che la voce sarebbe buona, un po' robotica, come dire, un po'. Antonio, hai già capito cosa intendo, no? Non è robotica, rimane strana, ma non robotica. Però rispetto alla voce naturale di Antonio, come lo senti verticale o al telefono, è un po' più così, quindi fa un effetto, sarà la timbrica dell'MB più 4 o più 5, non mi ricordo cosa mi ha detto, non lo so, un po' diversa, dai, un po' diversa. Vabbè, Antonio, ciao, sai, la voce da Massimo, capito? Come ha fatto Fedez, hai capito? A un certo punto, quando ha cantato in pratica senza playback, era perfetto. Dopo gli hanno tolto il playback, ha fatto un figura di merda. Ah, io sapevo, non il playback, come si chiama? L'autotune, quello che ti accorda la voce, dici che è stonato come una campana, cioè praticamente questi qua, cioè non è una voce come quelle mega voci di una volta, naturali, i tegazzo autotune, non ce n'era autotune, tu tu gli togli questo accordatore di voce automatico, no, che te la fa sembrare tutta bella, come dire, armonica, cristallina, e poi sono stonati come campane. Questi cantanti sono, ma per carità. Che adesso ti ha messo una copia, ma tutti sono così, tutti quelli, la verità, tutti quei ragazzi che hanno fatto amici sono così, tutti quanti, non c'è nessuno sano, sono tutti stonati, hai capito? Usano la voce tipo del berbero, cosa del genere, hai capito? Per adattarsi. Ma tu sto dicendo, è vero quello. È inutile che facciano amici. Che cazzo lo fai amici? Uno deve studiare, metodo, studiare canto e musica. Se non sai il canto e musica, che cazzo ci vai a fare l'amici? Non ci vai a fare niente. Infatti c'è così, questa è musica commerciale, ma terra a terra, cioè non cioè con l'autotune persino io potrei cantare intonato, persino io, e ho detto tutto, e quindi non è canzone, non sono corde vocali autentiche, capito? Mamma mia. E vabbè. Antonio, io ho perso la condizione del tempo e dello spazio, vediamo che ore sono, io sono senza orologio da secoli, che ore sono, devo pigliare il cellulare, le 7 e 9 minuti, ok. Dopo che aspetta un secondo che ti chiamo a 5 minuti e poi la proviamo un televisore. Sì, fai quello che devi fare. C'è qualcuno? Sì, che buongiorno. Buongiorno a lei, dove si trova? Io mi trovo qui a Capolazzi, tu dove sei? Non ho capito la località, io sono nella strada Perosilo. Però sei vicino a casa mia. Ah, ok, l'ho appena comprato, un piccolo CD, forse l'antenna non è molto efficiente, sono uscito a fare un giro in macchina a vedere cos'altro sentivo, da già purtroppo si è stato di bella. A dove sei? A Osio o stai scendendo a Sassari? Buonanotte, a un certo punto. Sei su a Osio o stai scendendo all'interno? Dove c'è il fosso e stai andando a Sassari? Giorno d'ombra? Sì, sentato sì. Quanto sembra? E così la serata è andata, dai. Col computer non ho risolto la mazza, va bene. D'altronde a me queste scartuffie non piacciono. Vabbè, ci penserò domani. Perché per quello non c'è problema. Io stavo controllando il televisore di Giuseppe che mi ha messo in russo e non ho capito più un cazzo ormai. Ah, fanculo a lui, cazzo. Ah, la lingua russa, quindi non riuscite più a risalire, non sapete neanche come uscirne, il menu è tutto russo e non c'è qualche reset, un forellino per il reset, no, come le radio, no? Certo, ma capisci tu come la lingua russa, come dire, in pratica il programma il televisore in pratica a un certo punto non va bene, hai capito? Ci manca solo che riceva solo reti russe, eh? I programmi russi, i discorsi di guerra di Putin. Appunto per quello, siccome l'ha trovato in un cassonetto questo televisore, non funziona, il discorso è quello. a un certo punto poi si sarebbe, cioè, l'orario eccetera eccetera, e sarebbe tutto a far culo, sarebbe a un certo punto. Oh, perde l'orario, ma cos'è? Forse batteria tampone da cambiare, oppure un condensatore che tiene l'ora, no? Le impostazioni, boh. Adesso impostazione è zero, ma poi c'era, quando me l'ha portato c'era, boh, segnava 15 e 16 minuti, una cosa del genere. Vabbè, è già troppo che si accenda, mi trovato nel cassonetto. Certo che aspetta, uscire dal menu, bisogna cercare su internet la parola lingua, col traduttore, lo traduci in russo, e dal menu vedi se trovi, andando avanti con il menu, la voce lingua, linguaggio, se riconosci quella parola è quella lì, e poi vai a tentativi, inglese, vabbè. Russo è bello, bello tosto. E vabbè, a base la biglia in cupo per il momento, poi non so cosa dirti, si arrangia. Ui, cosa mi hai ricordato? La storia dei DVD, dico i DVD con i film, che erano tutti a zone, cioè i DVD comprati negli Stati Uniti, poi li portavi in Europa, li leggevi col lettore comprato in Europa e te li sbattevi a spalle, perché mi pare c'erano 5 zone mondiali, tipo America, Europa, Asia, una cosa del genere, 5 codici. Per essere letto in tutto il mondo il DVD doveva avere il codice 0, mi pare, che era universale, tutta una cosa commerciale, dai. E vabbè, adesso non trovi, gira gira Antonio, non si trovano manco più film in DVD o in Blu-ray, i Blu-ray io non ne sto trovando. Una volta, ti ricordi, anche Media World c'era tutto un settore tutto pieno di film in DVD, Blu-ray eccetera, adesso credo che non abbiano proprio nulla. Adesso va lo streaming, ma se io volessi vedere un film X, un film a caso, e lo volessi vedere stasera, cosa dovrei fare? Forse dovrei cercare su internet, che ne so, tale film streaming, devi trovare la piattaforma, no? Online, con quelle smart TV o col computer, e poi pagando. Però non so se ti facciano fare l'abbonamento fisso, cioè devi pagare tutto il mese oppure puoi pagare solo il singolo film, quello non lo so. Non so se ci valgano le stesse regole di internet, di, sai, YouTube, Premium, quella roba lì, insomma. Quella è una tanto, cioè tu vuoi ascoltare una canzone e paghi solo la canzone. Tu vuoi vedere un filmato, paghi solo il film, oppure se ti devi abbonare tipo tutto il mese, una cosa del genere. Devo approfondire. Quanto servono cosa? I film in DVD, canzoni, venite riprendimi, io quasi 200 ne ho di quei CD, venite riprendi, io non faccio niente, anche il, come si chiama, tanto per dire, il, c'ho 100 e passa, VHS se li vuoi, mi. Se li prendi, cazzo, anche il video è stato addirittura su originali, quindi te li prendi a casa e te li porti via, non è quello il problema, già lo sai. Scegli tu, me lo dici e te li porti via. Antonè, come gradito, cioè come ricevuto, grazie dell'offerta, però anche Gianni me l'ha detto, c'ho dei film in cassette, in videocassette, che io dice non ne posso più usare, lettore, o ce l'ha buttato. Sì, sarebbe bello trovare qualche film che magari non ho, però ho detto, la camera mia sembra il negozio della GBC, non so più dove mettere la roba, non posso prendere altre cose. Comunque grazie per il pensiero, da. Se lo vuoi è qui, non c'è problema per quello, già lo sai, quindi prenditeli. tanto sono buttati a casa, non lo uso neanche io, infatti quindi a un certo punto se li porti via c'ho il videoregistratore, c'ho il telecomando, nuovi, sono più 120 videocassette, figurati tu, 50 sono rubate da cosa, da quello che è morto, e 15 originali, e capito, rubate da quindi gli altri sono tutti quanti in pratica, vabbè, già avrei capito. Poi c'ho i DVD, c'ho il DVD porno, se ne vuoi, tanto io non ne faccio un cazzo, se ne vuoi, c'ho anche lì, in pratica il DVD se lo vuoi, tutti i DVD e anche i CD. Quello è, anche tu, per quello, non è un problema per me. Io tre, cazzo, ce la fai. Quel porno, ma cos'era, una biblioteca aveva? Via, te sto dicendo. Ascolta, ti ricordi che biblioteca era, per curiosità? Non lo so, la verità non me lo ricordo più. Io, caspita, sono passati tanti anni, io dov'è che andavo? Io la prima che avevo fatto era Piazza Salvatore Ruggiu, o forse Messaggerie Sarde, comunque Messaggerie Sarde ce l'avevo la tessera, Piazza Salvatore Ruggiu ce l'avevo, poi avevo fatto la tessera in Viale Dante all'inizio, come si chiama quel ragazzo? Mamma mia, non mi ricordo neanche più i nomi. E poi in via degli astronauti anche, c'era una videoteca e ho fatto la tessera anche lì, poi alla fine ho cominciato a affittarne meno, sono rotto le palle anch'io, capito? E poi credo che abbiano tutte chiuse, no non credo, sicuramente hanno tutte chiuso, avranno svenduto il materiale lì, i film usati, mamma mia. È il tramonto di un'epoca, dai. Se li vuoi, basta che passi a prenderti. Intanto io non ne faccio niente. Quindi sono nuovi, proprio, sai cosa, mancati in pratica dalla biblioteca. Lui non ha mai pagato nulla, ha preso questa roba qui e non l'ha mai pagata. Cosa è quello? Voi dici rubati, cosa devo fare, ricettatore? No, tra virgolette, no. E che io sa se ci sono film interessanti. Guarda, io un film avrei voluto vedere dopo tanto, che era un film di categoria anche, era un film horror non eccelso. Però l'avrei voluto rivedere dopo tanto, si intitola paura.com, e in inglese era fear.com, dot sarebbe punto, fear.com. Questo film non si trova da nessuna parte, né su internet, né a pagamento, né a piratamento, né a torrent, né a emule, non esiste più questo film, è stato totalmente, come dire, schifato, ma ce n'erano peggio e più brutti anche, ne ho visti di film horror, però quello era particolare, l'avrei voluto rivedere. Pensa che forse ho avuto anche la copia, ovviamente la copia masterizzata era diventata illeggibile dopo pochi anni, illeggibile. Alla fine questi CD masterizzati erano una mezza fregatura, che dicevano che duravano 1000 anni, per dire, no, vabbè, 1000 no, 20 anni, 30 anni, 100 anni, poi dopo 10 anni i dischi leggibili, anche con lettori nuovi, quindi non era il masterizzatore che non leggeva, masterizzatori e lettori nuovi, sia da tavolo sia da computer, non leggevano più niente, per carità. Solo i film comprati originali, quelli sono leggibili anche dopo 20 anni. Adesso non so quale sia il più vecchio che ho di DVD, non me lo ricordo, forse Matrix, l'ho comprato nel 2000 mi pare, originale, anzi avevo la trilogia e funzionano bene, anzi uno l'ho perso, non so, qualcuno non so, peccato perché era la trilogia originale, dischi separati però erano tutti i tre film, no, quelli validi, poi erano tutti il quarto che era tutta una cosa gender ricchion strana, un po' strana, vabbè, non lo compro nemmeno quello. Comunque sia, tu passi qua a casa, ti riguardi e dopodiché te li porti via. Quello che ti serve è... tanto io non me ne faccio un cazzo. C'ho anche video di settore, eccetera, eccetera, quindi DVD ne ho 4, se non mi ricordo male, 3 o 4, una cosa del genere. Quindi, vedi tu. Scegli quello che ti pare ti piace. Jessica Rizzo ne hai, mamma, te la ricordo Jessica Rizzo, buona retta, bei tempi, c'era, prima ancora c'era Monopolzi, Cicciolina, adesso fanno, sono ancora le superiori, fanno già le troie sulle fan, scusate il termine perché ascolta, ma non c'è più un limite, cioè non c'è limite, i soldi facili piacciono e quindi altro che le baby prostitute di Parioli, adesso è una cosa vergognosa. Boh, bisogna stare attento anche a guardare quelle cose là, OnlyFans, non sai se è maggiorenne, se non è maggiorenne, per carità, il mondo la rovescia. Già lo so, me ne sono accorto, infatti. Apritelo anche tu, OnlyFans, OnlyFans, porno pompone, ti metti nudo lì davanti alla webcam, nudo e scappellato, a vedere chi ci ferma a vedere la live. Ma ve lo fai, non so cosa scemo. Se te lo immagini, mamma mia, vabbè. Sì, ci sono anche, credo, ragazzi che fanno, che sembrano dei fotomodelli, però di solito quelli sono per tutti ricchioni, fanno roba gay, capito? È un macello, c'è un intasamento tale che persino l'industria del normale porno credo che ci abbia perso un bene. Cioè queste ci prendono un computer, ci fanno, si registrano non so come, non so dove. Bubu, ma come ci siamo? Appunto, per quello, quindi, non conto se dice, lascia aperto, per me. Se va bene così. Dice, Camilo, se una tipa è toga, no? E non ha, e non è troppo, diciamo, con una famiglia cattolica, no, che la opprime. Che ne so, uno dice, ma che me lo fa fare a militare, la cameriera, la cassiera, quando posso mettere la webcam e far vedere tutte le cose belle che ho. Però vorrei vedere quante di queste si pentono anche di queste attività, perché poi una volta in rete i video non li toglierei mai più neanche fra mille anni, quindi aspetta un secondo che sto controllando questo cazzo di televisore, 2 minuti. No, aspetta Antonio, facciamo così, dai, tanto devo pure staccare la roba, dai, ci sentiamo con calma, ok, ci sentiamo e possibilmente anche vediamoci per quella cosa lì. Allora io ordino già, Grazioli, 7 ottavi d'onda, la ordino già, così mi dai i soldi dopo. ciao. Grazioli, ma vai, lascia perdere. Lascia perdere la Grazioli, a me interessa solamente l'altra, te lo sai. La Grazioli proprio non la voglio, lascia perdere. Cosa faccio? Dormo cazzo con la notte, cazzo col coso, dormo cazzo. Lascia perdere, non va bene, no. Va bene, al limite la lei legge 50 euro, costa 67 euro, mi sta anche bene, me la puoi anche donare, non ho problemi per quello, capito? Tanto dopo il 27 la sto pagando, quindi il 27, il 28 ti do i soldi in mano, mi devi dire solo quanto ti mi si è messo 67 euro più 10 euro di come si chiama, sono 68, facciamo 80 là, quello che è. Una volta che ce l'ha a casa non è che mi ha dato subito la vendita, però già va bene, mi sta anche bene, mi sta la vendita. Sì, ascolta, ma tu hai qualche preferenza tra la Sirio e la Midland? Sì, perché è la sessantenna, però la Sirio finisce con, la, con lo stilettino a punta. No, scusa, la Midland, con lo stilo a punta, invece la, la Sirio ha quella specie di gabbiettina faccia, fatta da quei due cerchietti uniti. Boh, antistatica, non so cos'è. Vabbè, è carina a vedersi. Hai preferenze? Sì, va bene così. In pratica è una gabbia antistatica quella lì. Mi sta anche bene. Vabbè, comunque non esiste quella, lo sai, sì. Perché non te la danno. È solamente come fotografia, più che altro. Però va bene. A me non me ne frega niente, capito? Basta che sia dopo il 27. Quella cosa lì adesso mi interessa solamente ritirarmi quell'apparecchio decametrico e basta, non mi interessa nient'altro. L'ho ordinato 129 euro e quindi mi sta anche bene. Poi dopodiché dopo il 27 a me sta bene anche l'ordine di così c'è, anche se arriva dopo 3-4 giorni non frega niente, basta che arrivi, però non aspetto subito la verità, perché non mi fido con questi cicloni, la verità non mi fido, non voglio che passare canto un giorno da leone, l'altro da coglione, canto in pratica, canto che poi prendo fuoco, canto torna, no. Dai, cioè ordiniamo allora la normale, con lo stilo che finisce dritto, no? Tipo parafulmine. Vabbè, basta che sia un'antenna, hai capito? Vuole la tua, là. Non me ne frega niente se non c'è quel cerchietto famoso. Tanto non cambia niente, la verità, a me. Io posso fare anch'io una cosa del genere. Ti faccio una specie di placchetta di plastica larga, tonda 15-20 cm sopra e quindi sono a posto, capito? Non è che cambi molto. Sì, la differenza, poi vabbè, te l'ho detto, sì, il puntale ce ne freghiamo. La Sirio in più ti dà quei manicotti da mettere dove mette le viti tra un Sirio e l'altro, magari la fanno più robusta, poi vanno fatti con l'autoagglomerante anche quelli, però chi lo sa se diventa più robusta poi. Vabbè, poi ne parliamo, ok? Ne parliamo. Ciao Antone. Adesso mi trasferisco dall'altra parte della casa, ok? Buonanotte e ci sentiamo. Ok, adesso appena adesso più che altro mi interessa incassare quella parecchia là, più che altro. Però dopo il 27 ti chiamo. Ti do i soldi contanti, dopodiché una volta che ho i soldi contanti eccetera eccetera eccetera, compresa anche la cedra, sai, deve venire in pratica a salire una del genere, quindi non c'è nessun problema, ti pago tutto e siamo a posto. Capito, tu pensi in quale, guarda, tutta l'antenna costa tot, più il, come si dice, che c'è da pagare, siamo a posto. Due soldi, una volta che a te arriva, poi ci vediamo. Non è che devo pigliarla, cioè aspettarla subito, la verità, perché non aspetto subito. Non so che penso, guarda, è meglio che l'aspetto dopo, una cosa del genere, la verità. Ho subito, guarda, con la manta, va mai più, cioè strano, in 30 anni non mi è mai capitato una cosa del genere, mai, in 30 anni. Non lo so cosa cazzo è capitato, non lo so, però è brutto, è veramente brutto, guarda, è uno spavento del genere. Rimani scioccato, hai capito? Il discorso è quello di me. Già ti capisco, Antoni, però ricordati, la colpa non è dell'antenna, la colpa è di quel... quello in alto, seduto sulle nuvole, mi hai già capito? Non voglio bestemmiare qua, perché sennò poi mi dicono che sono blasfemo. Ciao, cuore di ciao, saluta Simona. È bello, sai cos'è? Il fumo non è partito, cioè non è sceso davanti a casa, se non avete sentito il tocco. Quello è partito da Ossi, in orizzontale, e mi ha preso in pieno, hai capito? Il discorso è quello. Cioè, se mi avesse preso in pieno, avrei detto, vabbè, la colpa è la mia, la fanculo. Invece no, niente da fare. È partito dalla parte di Ossi, hai capito? Il discorso è quello. Il tuono è partito da lì, poi il fulmine orizzontale è passato e ha fatto quello che ha dovuto fare. Anche i romani non sono l'altro, non solo a me, ha fatto anche un altro l'ha fatto. Quindi siamo due palazzine, non una, due. Il discorso è quello, ma romano non è partito, come si chiama, l'impianto centralizzato e la parabola, se no io, sai, il casino che mi è passato, e non te lo dico niente, guarda, a me mi sarei dovuto pagare il cazzo tutto quanto, tutti gli impianti, il cazzo, tutti i ricevitori satellitari, televisori, cose del genere, della partita, cioè mi sarebbe costato, cazzo, mi sarei messo, guarda, avrei pianto per almeno un mese, meno male sono stato fortunato qua, meno male. Quelli che vanno in orizzontale, come che si chiamano? Globulari, fulmini globulari? Esatto, sì, uno di quelli mi ha pianto in pieno a me, mi ha preso in pieno uno di quelli, anche nei romani è passato uno di quelli. Partito da Ossi, il tuono lo senti da lontano e poi vedi il fulmine che ti passa orizzontale, cioè è presente, uguale. Ok, aspetta, globulari, però non so se il termine sia quello, sto guardando su internet, Millo, aspetta, se ricordo male, fulmini globulari, sì. Vabbè, dai. Antonio, chiudo, dai, non riprendo. Ci sentiamo, ciao, buonanotte. E guarda che il globulare dovrebbe essere quelli che entrano dentro casa, che rimangono dentro casa, e in pratica c'è una pallina bianca che si fa il giro dell'appartamento, che finché tu non apri la finestra, loro rimangono dentro casa, e quindi tu rimani cazzo in pratica incassato lì, che tu non sai cosa cazzo fa, il discorso è quello, hai capito? Quelli sono i globulari, sono. Sto vedendo anche delle immagini su internet, sì, che roba strana, si proprio fa un tipo una sfera, zio Maria, mamma mia, è roba strana, tutta roba poi fatta dalla natura, è pure micidiale, è micidiale. E via, ok, Antonè, di nuovo, ciao ciao. Buon controllo, cambio. E via, ok, ciao ciao. Ok, avanti con l'entrare. Che vuole entrare, avanti. Ho sentito qualcuno che chiamava, adesso però o esce di portante, avanti che vuole entrare. Oh, io vedo la portante, Santiago 8:30, ma non sento audio. Vabbè Antonio, dai, io stacco, sono qua. Ciao ciao. Yeah, ciao, domani, là. Ok, ci sentiamo domani. Marco, Marco? Chi chiama, avanti? Ciao Marino, scusa se ti disturbo, che stai chiudendo. Fammi una cortesia, mi puoi dare un controllo su questo segnale? Cambio. Sì, 9:10, tendente al 9:15. Più 10 però, dai, diciamo. E radio abbastanza buona, sempre con tonalità tue, no? Un po' basse. Ok, benissimo Marco. Ok, puoi anche già chiudere, mi interessava solo il controllo. Bene, grazie. Ciao, ciao Antonello, se mi stai ascoltando, chiudo anch'io, dai. La camera arriva all'incirca così. Rieccomi. Tu Antonio 9:20 qui a ottava, 9:20, vai tranquillo, sei bello squillante. Va bene, no, meglio così. E tu Antonio, Santiago 8 che sta arrivando, Santiago 8, 8:30 diciamo, dai. Sono con la magnetica, lo sai che la Mantova mi c'è il fulmine, quindi mi ha crepato 2-3 divisori a un certo punto. Adesso vedremo un po' di di decidere, o mi metto l'antenna di nuovo sopra, se no se la piglia il culo e metto un dipolo, adesso vediamo un po'. Mettiti un'antenna leggera e se non ti spacca la schiena è facile anche da smontare. Ok, un attimo Antonio, che sto chiudendo, mi interessava un controllo da Marco. Antonio mi ha dato poc'anzi. Bene, ciao, ciao Marco, ciao Antonio, ciao, ciao Antonello, saluto gli ascoltatori, io chiudo, quello ti permetterà, ciao a tutto. Riprendi Antonello, ci sentiamo, ciao. Ciao, ci sentiamo, stammi bene, buonanotte con tutto. Non so da dire. Avanti Antonio, ripiglia un attimino tu con. Non c'è problema. Ecco Marco, prenditi un'antenna seria, prenditi. Grazie Gabri. Cioè, leggera, soprattutto che sia leggera, che non ti devi spaccare la schiena. Non è quello il problema, io questo. Il peccato sono le tegole del Bermuda, il discorso è quello lì, non è che sia questo di antenna leggera, è questo di antenna che a un certo punto si spacchi e va per culo. Non è che posso spendere 300 euro di televisore, capito? Per montare il baracchino, a un certo punto il baracchino si può prendere anche in culo. Hai capito? Tutto lì. Se mi faccio un bel dipolo, mi faccio, uso un dipolo, a meno dipolo, sono tranquillo, non scende nessun fulmine e gioco a pusho. Il discorso è quello. Ma di quello che stai dicendo non c'entra niente. Non c'entra nulla, poteva succedere anche alla TV, poteva succedere anche alla TV, cosa c'entra? Guarda un attimo, è che ti dovresti fare un affare che ti protegge. Ci sono questi condensatori a scarica, ci sono, che non te lo fanno entrare, ti proteggono, prima di entrare ti proteggono a monte e non succede niente, capito? Li vendono pure, qualcuno ce li fa, qualcuno è. Cioè quando è puff blocca al monte, non ti fa entrare il fulmine, non ti fa entrare, ed è molto molto efficace come tecnologia, capito? Ti ho capito, ma vedo che a me mi ha pigliato la bobina in pieno, ma l'ha preso, hai capito? Quindi non è che bobina che tenga, il problema è quello. Quindi a un certo punto il discorso è quello lì. Adesso vedremo un po' cosa costruire, cosa fare, cosa cosa c'è di meglio, la verità, per il palazzino, un bipolo o se no un bazooka, eccetera eccetera, forse meglio un bazooka a me. Mi sa che gira gira vado da Nicco adesso, gli faccio vedere il bazooka che c'ha lui, mi piace quello, ragazzo, vai il bazooka al palo, almeno quello è plastificato e non succede niente. E sto più tranquillo, esce bene, non uscirà quanto un coso o un amato, ma però sono tranquillo, il discorso è quello. Se no, adesso vediamo un pochettino, scenderò questi giorni, la verità, altro non posso fare, il discorso è quello lì. Vabbè, vi lascio 5 minuti, vi lascio, dai, che sto controllando un televisore che mi ha dato Giuseppe Leoncino. Me l'ha lasciato scritto in russo, cazzabina, che me lo scrivo in italiano. Capo Antonio, fai. Io ti do un consiglio, mettiti un'antenna, cioè più... Cioè, e quando non vi sei in casa, come faccio io, che devo uscire e fare? Staccane tutto. Io sto staccatomi questi giorni che non c'ero. Tutto staccato. Non si sa mai. Alto, ma non ti stai parlando? Buongiorno, buon Antonello. Ciao, buonasera. Io non lo sento. Antonello, vai in FM. Ciao, vabbè. Prima 8. Non lo sento. Io ti sento, ma tu non mi senti? Ho detto che ti sente bene adesso, però tu non lo senti. Il capo è Santiago 8 qua. Ma con Reme a 7, quindi non lo ascolto. Se va in FM può darsi che riesco a sentirlo. Faccio provare a andare in FM. Facciamo le prove, dai, se non brucio il cable naturalmente. Facciamo le prove, dai. Ok. Per fare la prova. Prova a vedere se mi ascolti. Mi senti? Ti sento, sì. Ok, pensavo di dover attaccare il cable perché c'ho 37 gradi operato. Anche con la magnetica, boh. Quindi sono tutto messo male per il momento. L'antenna è fusa, lo sai, sì, la matto va turbo. È completamente fusa. Quindi vivo da lì tu. La bobina, il coso, la, tutto fuso, il PL, sembra saldato, cazzo, con la saldatrice sembra saldato, mi ha detto. Immaginati tu, cazzo, la razza di fulmine che mi è sceso, cazzo. Meno male mi è sceso, cioè, già è sceso anche nel tuo caso, ma comunque sia. È un bel caso. Ma vi devo lasciare, ce lo sentiamo il prossimo, ciao. Culo, mai. Una cosa del genere. Tino, ti giuro, ma in 30 anni, mai. Neanche in via di Zed mi è capitato una cosa del genere. No. Qua, cazzo, mi è capitato. Allora, Antonio, sì, 9.50 qua. La radio, vabbè, lascia desiderare, però quello è un dato di fatto. È successo anche a me, mi ha sciolto la parte della resina, tutta la bobina me l'ha troncata in due, ma l'abbiamo rimessa su, in me che non si dica adesso. Ma scusa, ma tu non hai quella che ti ho dato io, quella di Gavino, perché non ti piace quella? Poi, la capellina, fratellini, tutto quanto fuso. La mia, la tua, tutte e due, a un certo punto, vabbè, ci ho dato 2001, adesso ci metterò quella, professoria, poi dopodiché, fra la settimana mi prendo la BA27L, cioè la Energy più che altro, 67 euro e ci pensavo a quella, non ne metto più io, quanto fa, oh, domani, ce la faccio cazzo a stare spaventato, no, non, ormai i tempi sono cambiati, cazzo, è cambiato tutto, è cambiato purtroppo, quindi ci metto la quel tipo di antenna, pesa mezzo chilo, se quando si fonde va a fanculo, a un certo punto, ci ho buttato 67 euro, ma buttarsi 120-150 euro non esiste più. Vabbè, io mica l'ho comprata nuova, l'ho ripristinata e mi hanno dato una mano a aggiustarla, quindi ho rifatto tutto quanto e l'abbiamo piazzata, anzi sabato me la riscendo perché le stazioni sono 1.4 e vediamo di abbassarla ancora di più, con la spirale vediamo un pochino di alzarla, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Andare, va bene Antonio, dai, Antonio se n'è andato, è dovuto uscire. Ok, dai, per quello non c'è problema. Comunque sia, io ho chiesto da Lino, il metro dice, cazzo, dice Antonè, non ho mai visto una cosa da leggere il metro, dice, sotto c'è la plastica, dice, la plastica è in tela, sotto la, tutto quanto sciolto, in pratica la bobina, non è riuscito a staccare niente, il piede sembrava come se l'avessi saldato con la saldatrice, mi ha detto. Sì, anche a me ha fatto così, tutto carbonizzato. Grazie a Dio però non ho fatto danno al radio, capito? A me dell'antenna poco me ne frega, l'importante è che non faccio danno al radio. Sì, ma almeno io ho avuto cioè, la fortuna che la resina è a posto, hai capito? Tutto lì, e anche lo stilo, che è nuovo, tutto quanto a posto, però l'unica cosa è dove c'è il... Boh, tutto incollato era, tutto quanto incollato, boh, cazzo, ho detto guarda, ho detto, buscati una bobina, cioè una base di una mantova 5, una mantova 1, non fai altro che metterci lo stilo e sei a posto, gli ho detto. E io stavo cercando il piantone, mi si è bruciato anche a me. Vabbè, comunque già sembra di aver risolto. Adesso sabato scendiamo di nuovo, se tutto va bene, e vediamo di stare a giocare un po' con le stazionarie. Infatti, adesso mio dirò la Energy 5 ottavi, mio dirò 67 euro fuori. Quindi prendo quella e va a far culo, non ne prendo altre, no. Non mi fido più con questi cazzo di cicloni, da una parte all'altra, uno ogni settimana ce la fai, cazzo, no, non esiste, io posso dormire, cazzo, la notte con gli incubi, quindi almeno, cazzo, con quell'antenna lì, una volta che stacco il piede, io ce la butto fuori dal coso, dal tetto, se la prendo in culo, se si spacca, si spacca, se non si spacca, se la piglia in culo. Va bene, del resto tutto a posto? Sì, tutto a posto, grazie a Dio, almeno quello. I televisori me li ho comprati nuovi, 300 euro a casa spesso. Ho capito. E cosa vuol fare? In casa 99 euro a casa l'una, no? Se ne peggio mi piglio i televisori buoni, 140 euro uno e 160 l'altro, quindi in pratica ho pigliato di quelli come si deve, hai capito? Non televisori di merda. 99 senza avere nulla è inutile, cazzo, scusa, comprarmi il televisore. Certo, una volta che te lo prendi, basta che sia un po' buono, va. Me l'ha preso buono, come si deve, va fanculo. Poi vabbè, c'ho due ricevitori, adesso uno ce l'ho, l'ho messo in cucina, l'altro gli altri due devo riparare. Adesso li sistemo e poi li sistemerò, li regalerò, questo lo so, adesso vediamo un pochettino. Andare, andare, vabbè, dai, che mi devo spostare Antonio. Ci sentiamo, lascia l'FM, se non ti sente nessuno, io perlomeno ho provato a ascoltarti, ma sinceramente non riuscivo a sentirti. Ah bella. Comunque ti ascolto, sono con la Turbo 2001, amico, con quella della macchina. Figurati tu. Ah, cos'è? L'antenna della macchina, Ehi, la Turbo 2001, quella conta, già lo sai. Sì, ce l'ho anche io, la Turbo 2001, ce l'ho. È attaccata fuori dalla finestra, già lo sai. Ehi, va bene, dai, ciao, sentiamo con me. Stavi bene, saluto in casa. Mi sento solo il signore che ha cambiato il televisore, non sento l'amico, saluti. Chi sei? Ehi, buonasera anche a te, tu chi sei? Buonasera. Ma sto giusto provando una CB che ho comprato, non riesco a capire, forse l'altro signore è lontano e lei è più vicino, però sento solo lei, mi dispiace per l'antenna. Ma non senti a me, Antonè? Sì, sì, sento anche a te, sente. Sente anche a me, la verità, perché è attaccata a casa mia. Chi sei? Buonasera, benvenuto anche a te, sei qui a Quadrato, io sono attaccato a Quadrato, quindi sei a 50 metri da casa mia. Buonasera, sono Marco. Ok, ecco, quindi è perché sono vicino. Ho un'antenna magnetica sulla macchina. Sto facendo un po' di prove, penso che la dovrò cambiare. Saluti di nuovo. Marco! Marco! L'onfio, avanti Marco! Marco! Ora sento anche l'altro signore, salve! Ma non mi senti? Sì, la sento, sento tutti e due ora. Perché ho aumentato un po' di watt, se no attacco un kilowatt. No, no, no, così è più che sufficiente. Non so perché prima non la sentivo, sentivo solo l'altro signore. Perché stavo scendendo con 2 watt, adesso ne ho messo 100. Ho capito, ho capito. Va bene, dai, continuate pure. Ciao Antonè, sentiamo. Ciao Marco, ciao. Ciao, buona serata. Antonè, io sono andato via, dai, sentiamo. Ciao, ciao. Se dove 10 qua, figurati tu. No. Mica attacco il Galaxy me. ringrazio che sto senza, senza antenna, ringrazio a quello. Fanculo, cazzo. Già l'ho fusa una volta, cazzo. Adesso me l'ha fusa il fulmine, cazzo, va a fanculo. Ma perché Antonio poco fa quando ero basso, quanto mi ascoltavi? 7, adesso sei 9:20. Adesso ho dato un po' di cose, ma se vuoi aumento anche un pochino di più, mi guarda, ha aumentato appena. Lascia stare così a fottidini, già va bene così. Va bene, dai, ciao ciao. Rimetto come era prima, sono qua. Vediamo così, dai. Ciao. Ma è inutile che tu parli con gente che ha l'antenna attaccata al frigorifero. Ma di cosa stiamo dicendo? Carissimo, carissimo, ma ero 2 watt, 2 watt, giusto così, per farmi sentire. Ho capito, ma anch'io ne ho 5 adesso, però è inutile che stai a fare prove con antenne di macchina, fratello. No, è perché è entrato Marco, non mi sentivo, aspetta, ma devo azionare il Galaxy. Ma non sente a chi, a te? Ma lascia perdere, dai. Sto cenando, ti sono entrato poco fa, ci sentiamo dopo. Ciao, ti ho chiamato da un'altra parte, va bene, dai, fai pure, sono qua. Mi guardo un po' il PC e preparo 2 cose e poi già fai chiamata là. Andrà bene, ciao ciao. Via, ciao ti, ciao ciao. Cioè non sento a te. Bah. L'antenna. Un'antenna in macchina con la calamita, quindi. E cosa vuoi fare? Ma NFM, ma stiamo scherzando, ma stiamo giocando, ma lascia, ma mi meraviglio anche di Marco. L'hai fatto chiudere, sempre subito, sì. Sì. Ti devi. dai, passo sul 12. Avevo il CB. Avevo il CB con un'antenna, là mi arrivavi col CB, con la Delta Loop, mi arrivavi fondo scala, con la Delta Loop mi arrivavi fondo scala in FM. Pensa tu, se con un'antenna di macchina non ti ricevono, anche a cosa ti posso dire ad Alghero, ti ricevono in FM e ti ricevono. Quindi da sapigliti. Dai, sentiamo su 12. Scusate se mi sono permesso di entrare. Dai, sentiamo dopo. A me non mi senti? Non mi senti a me, no? Cade morto, vabbè. Chi è che mi sente allora qui? Il 27?